GR Europa. Passa al Parlamento europeo l'accordo sulla pesca, l'accordo di compromesso raggiunto dopo una serrata trattativa in Consiglio dei Ministri UE. L'intesa, a cui si è apposta solo la Svezia, prevede tra l'altro una riduzione progressiva al 5% dei cosiddetti rigetti in mare del pescato non commercializzabile, quindi rispetto al 7% precedentemente indicato. La riforma del settore dovrebbe trovare applicazione a partire dal 2014, riforma che mira a garantire uno sviluppo sostenibile e di lungo periodo al settore appunto della pesca. Bilancio europeo 2014-2020 riprende la trattativa a braccio di ferro tra Commissione e Parlamento. È ripartita ieri la maratona per il bilancio pluriennale europeo 2014-2020, ferma da marzo per il braccio di ferro con il Parlamento europeo, che bocciò l'accordo dei capi di Stato e di Governo per 960 miliardi di impegni e 913 di spesa effettiva. Troppi tagli, troppi pochi soldi, troppe rigidità, spiegarono i parlamentari. Ieri, al termine del cosiddetto trialogo tra Commissione, Consiglio e Parlamento europei, i ministri finanziari hanno raggiunto un accordo di massima su almeno una parte del bilancio annuale comunitario rettificativo, 7,3 miliardi di euro sugli 11,2 che la Commissione europea considera però assolutamente necessari per rispettare gli obblighi giuridici e contrattuali dell'Unione europea. I favorevoli, tra cui Francia, Germania, Italia, Spagna e Polonia, sono sufficienti a garantire la maggioranza qualificata. Il commissario al bilancio Lewandowski si dice comunque fiducioso di poter chiudere entro giugno, nonostante i 3,9 miliardi che ancora mancano e sui quali i parlamentari non faranno sconti, assicura Sidonia Jędrzejewska, membro della commissione budget del Parlamento europeo. It is a vital issue for the European Parliament. È una questione fondamentale, dice, per il Parlamento europeo che siano disponibili risorse sufficienti per rispettare gli impegni che l'Unione ha preso con Paesi membri, università, studenti e aziende. Two companies. I colloqui riprenderanno il 28 maggio. Laura Bettini, Radio 24 e Sole 24 Ore. Rilancio e consolidamento economico. Il tutto passa attraverso l'internazionalizzazione delle piccole e delle medie imprese. Così Emma Bonino, il ministro degli esteri, poco fa in un'audizione davanti alle commissioni esteri di Camera e Senato, dove ha parlato naturalmente anche dell'obiettivo europeo. L'unione monetaria deve essere riformata e quella bancaria attuata al più presto. È indubbio la crisi economica e anche quello che abbiamo vissuto ha visto anche crescere movimenti in molti paesi, movimenti xenofobi e comunque movimenti euroscettici. E io penso che in realtà il Presidente Letta ha già dichiarato in Parlamento che il nostro obiettivo rimane, e lo riconfermiamo, quello degli Stati Uniti d'Europa. Io sono una federalista convinta, e con me il governo, perché francamente non riesco a vedere al mondo altro sistema istituzionale che abbia saputo coniugare diversità e democrazia. E con questo è tutto, un saluto da Gigi Donelli, da Roberto Scaltritti in regia, l'appuntamento domani poco dopo le 15. GR Europa è sostenuto dal Parlamento europeo. Info su radio24.it.